Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Grazie a 35 milioni di contatori intelligenti dell'energia elettrica, l'Italia è tra i paesi leader al mondo nel settore del cosiddetto smart metering, ossia quei sistemi di telelettura che sono in grado di comunicare le letture in tempo reale e anche eseguire alcune operazioni come per esempio il distacco oppure la riduzione di potenza. Oggi la sfida è estendere queste possibilità a tutti i servizi, a partire dal gas e dall'acqua, realizzando così anche una delle infrastrutture di base della Smart City. E questa è una sfida globale con una leadership tuttora insomma in discussione. Ebbene, proprio in Italia partirà tra poco una vasta sperimentazione che coinvolgerà 9 città per 7 iniziative sperimentali di telegestione di contatori per diversi servizi pubblici. Iniziativa quasi certamente unica per complessità e dimensioni. Ne parliamo con l'ingegner Lo Schiavo, che è vice direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e l'Acqua, che è all'origine appunto di questa iniziativa finanziata, lo ricordiamo, con un contributo di circa 10 centesimi l'anno per consumatore, prelevato dalle bollette. Buonasera Lo Schiavo. Buonasera, grazie. Allora Lo Schiavo, sono coinvolte Torino, Reggio Emilia, Parma, Modena, Genova, Verona, Bari, Salerno e Catania, poi altri comuni minori, per un totale di circa 60.000 punti di fornitura di varie utenze. Allora, Lo Schiavo, che cosa vi interessa mettere in luce, capire con questa sperimentazione? Che esistono delle sinergie nei sistemi di raccolta dati delle letture di servizi diversi. Tra i servizi diversi, come ha detto lei, mettiamo il gas e l'acqua, l'elettricità è già coperta e certamente l'esperienza elettrica è l'esperienza che mette l'Italia al primo posto, ma anche altri servizi che non rientrano strettamente nel novero dei servizi regolati dalla nostra autorità, ma che comunque sono di interesse per la collettività. Faccio l'esempio dell'illuminazione pubblica, della raccolta rifiuti, della mobilità, del traffico. L'idea è questa: siccome per trasferire i dati delle letture del gas in primo luogo e progressivamente anche degli altri servizi verso i centri di gestione occorrono delle infrastrutture di comunicazione, che chiamiamo concentratori. Un concentratore è un punto intermedio tra il sistema di telegestione e il contatore finale. Questi concentratori potrebbero far passare anche dati di altri servizi nella stessa zona, nello stesso territorio. Cioè, poiché bisognerà realizzare delle infrastrutture per lo smart metering del gas e dell'acqua, che voi appunto regolate, l'idea è che questa infrastruttura sia aperta e che possa quindi essere utilizzata anche da altri servizi. Sì, esattamente, il punto di mettere in comune l'infrastruttura è esattamente l'idea, perché questo potrebbe ridurre i costi complessivi indotti dalla telegestione. C'è un altro aspetto importante, secondo me, che è che i servizi sul territorio sono forniti da operatori, da erogatori diversi. Allora, la cosa migliore è che queste infrastrutture di comunicazione condivise siano realizzate e gestite da operatori specializzati che possono quindi fare da imprenditore territoriale per queste reti condivise. Ed è questa una delle caratteristiche del bando dei nostri progetti pilota. Noi abbiamo favorito l'insorgere dei progetti in cui non sia il distributore del gas a realizzare queste reti, ma sia un soggetto terzo, specializzato, che ci mette del suo e ha la sua cifra di business sul medio periodo su questo. Ecco, c'è un aspetto interessante dal punto di vista di chi si occupa di innovazione, e cioè il fatto che, diciamo così, la scarsissima simpatia che per ovvie ragioni di sicurezza c'è tra gas e cavi elettrici è in buona parte responsabile di questa apertura agli altri servizi. La questione è quella dell'infrastruttura, cioè dell'architettura tecnologica. Mentre lo smart meter elettrico è un oggetto elettrico che scambia dati attraverso il filo elettrico, viceversa per il gas e per tutti gli altri servizi è necessario passare a una comunicazione via radio. Quindi il sistema di comunicazione a cui stiamo pensando, che c'è un concentratore che comunica via radio con gli smart meter gas, con i meter dell'acqua, con i pali della luce e così via, raccoglie questi dati e li smista ai singoli esercenti. Senta, ma perché è così importante questo smart metering del gas? Il motivo vero per cui noi l'autorità è da anni impegnata per lo sviluppo dello smart meter gas, è fondamentalmente legato alla liberalizzazione di questo settore. Il fatto, per esempio, di cambiare fornitore otterrà un grande beneficio dalla realizzazione dello smart meter gas, perché sarà finalmente possibile fare una lettura di chiusura in occasione del cambio contratto. Così si metteranno a posto le bollette, ci saranno diversi vantaggi, compresi anche vantaggi di sicurezza. Grazie Luca Lo Schiavo. Grazie mille a voi. Ci fermiamo qui, Smart City torna lunedì, buon fine settimana.